Voci di piccola impresa. Idee anticrisi di Anna Marino. Benvenuti a Voci di piccola impresa. Attraverso la rete la gestione delle funzioni in azienda diventa più facile, come un albero che porta linfa a tutti i rami, a tutte le foglie, senza dimenticarne nessuno, perché tutti sono importanti. Altre due best practice oggi che sono idee per startup ormai consolidate, diventate scale up, in breve grazie al fatto che puntano in era internet sulle risorse umane, sulle persone e ne potenziano l'efficacia in azienda. Idee di imprenditori anticrisi che non risparmiano sui dipendenti ma ne potenziano e valorizzano le capacità. Vediamo com'è possibile ottenere il massimo risultato accorciando tempi e costi. Un sogno realizzato. Funziona come un social network e ogni lezione dura quanto una pausa caffè. È l'idea di Lebu, www.lebu.it, e cioè Learning Business, grazie alla quale per la prima volta la formazione aziendale è interamente online. L'origine è l'esperienza di Cesim Italia, nata a Milano nel 2001, ad opera di Gianfranco Di Maira e Marco Rossetti, una piattaforma web che fornisce corsi di formazione aziendale ed è strutturata come un social network, in modo da connettere fra loro dipendenti di imprese diverse. Con Lebu però si fa un passo in più. Ci sono corsi di marketing, di leadership, di innovazione da frequentare in qualunque momento della giornata. Dalla pausa caffè al viaggio di ritorno dal lavoro in treno, tutti i corsi e lezioni hanno la durata di soli 20 minuti. Marco Rossetti, fondatore di Lebu, racconta l'idea che ha scavalcato la crisi. È successo che noi siamo formatori, abbiamo altre aziende, facciamo proprio formazione classica, si dice manageriale, aziendale, fisica, in presenza. In uno dei programmi con un nostro cliente storico avevo invitato come speaker Marco De Rossi, che è il fondatore di Oil Project, che è una piattaforma che ha 600.000 contatti al mese attualmente, dove gli studenti delle superiori studiano tutti i giorni, eccetera. Diciamo che ho visto, diciamo, in Marco me quando avevo 23 anni, e quindi quei classici processi di identificazione. Ho detto: bravo sto ragazzo, guardate, ha 14 anni, e avevo proprio il bisogno, tanto tempo che pensavo come fare a modificare un po' gli approcci della formazione nel nostro mondo B2B, chiamiamolo, no? Per le aziende. Sentendo la sua storia in diretta, perché poi lo stavo intervistando, ho detto: ah, ma questa cosa nel B2B non c'è, cioè nel mondo delle aziende non c'è. Quindi ho visto quello che noi diciamo il buco nella roccia dove l'acqua ci si infila, e io dico sempre: se c'è un buco nel mercato, prima o poi un'azienda ci va. E volevo che fossimo noi di Cesim e poi quindi di Singularity, che è l'incubatore che ci sta dietro, che poi è sempre nostro. Da quel momento in cui è nata l'idea, chi vi ha aiutato? Allora, mi riaggancio a non stare fermi, questo proprio non ci appartiene. Diciamo che noi lo chiamiamo il difetto del cerbiatto, che di fronte ai fari della macchina c'è un errore biologico, cioè si blocca, si ferma quando attraversa, e questo qui noi proprio ce l'abbiamo scritto quasi nei muri, tutti i nostri ragazzi lo sanno. Quindi sempre capacità di osservare. Noi partiamo come Cesim Italia, intanto dico sempre noi perché Lebu è fatta da me come socio, Gianfranco Di Maira, che è il mio socio storico, siamo i soci fondatori di Cesim Italia, e poi adesso le dico di Singularity, che è l'incubatore. Quindi la risposta è: ce lo siamo fatti da soli, e Marco De Rossi, per cui l'avventura è nata proprio anche con Marco De Rossi, perché noi ci teniamo ad avere poi in realtà quello che è stata la scintilla di tutto. Certo, per tutte le startup e per tutte le aziende l'importante è la squadra, e questa c'era, è fondamentale per fare la svolta di cui parlavamo. Ecco, come è avvenuta questa svolta? I capitali e il luogo, lo spazio, ovviamente sono problemi e banalità operative, no, ma vanno affrontate. Certo, è vero, verissimo quello che dice, sono proprio problemi che si hanno quotidianamente. Allora, in realtà l'incubatore, chiamiamolo così, è Singularity SRL, che abbiamo fondato nel 2010, sempre io e Gianfranco Di Maira, perché la nostra idea è, dopo Cesim Italia, che è l'azienda diciamo un po' cuore di tutto quanto il gruppo, volevamo differenziare un po' il business, ma metterla sotto un cappello, sempre diciamo sotto, diciamo, il nostro controllo, se più così dire, ma non è come controllo, ma è ispirare i nostri ragazzi stessi a crearsi delle loro aziende. Quindi tuttora, se qualcuno ha un'idea internamente, noi lo aiutiamo a crearsi la sua azienda. Per noi è un buon modo per intanto tenere i talenti e dargli lo spazio che vogliono, che desiderano, per fare un'esperienza un po' protetta. Diciamo. Questo sarebbe da fare, diciamo, in tutte le aziende grandi, piccole e di tutte le taglie e dimensioni, ovviamente, perché è importante promuovere le idee. Sì. A me interessava anche il passaggio alla pausa caffè, che incuriosisce molti. Che cosa vuol dire formazione nella pausa caffè? Sì, allora il modello nasce proprio da una credenza venuta dall'esperienza, anche dagli studi, sono psicologo del lavoro, e l'idea è che l'apprendimento vero è informale, l'apprendimento si fa fuori dalle aule quando ci si confronta, l'analogia è quando si va al cinema, è nel commento che si fa dopo il cinema con la persona con cui si è andati o con gli altri, quindi nella comunità con cui ci si confronta che ti ricordi e elabori quello che hai visto, e l'apprendimento dei concetti manageriali o economici che si fanno nelle aziende funziona allo stesso modo perché sempre esseri umani siamo. Siccome diciamo il format dell'aula, e abbiamo visto anche per motivi di costi e di tempi, le aziende le stanno veramente riducendo come format, è difficile adesso andare in aula 3 giorni consecutivi per le persone, siamo finalmente approdati diciamo alla terza ondata dell'e-learning, che è quello social, che sfrutta le tecnologie dei social network, combinando le due dimensioni viene fuori il tema del social learning o i famosi MOOC. Mancava appunto il MOOC aziendale B2B, il modello che ci sta dietro è un marketplace dell'apprendimento, cioè i fornitori di contenuti possono essere le società di formazione, gli utenti stessi, cioè i learners, coloro che apprendono, le aziende, cioè le uffici formazione delle aziende che hanno i loro contenuti specifici, oppure i formatori cosiddetti freelance, ce ne sono tantissimi che hanno un sacco di conoscenza, ma che purtroppo è sprecata ed è incanalata a seconda dei progetti, mentre con questo modello nella nostra testa si apre a tutti la possibilità di inserire contenuti freschi, cioè qual è il modello che ci sta dietro? Noi volevamo fare uno YouTube, mi lasci dire, dell'apprendimento, non c'era. Voi quale modello di business avete pensato per mettere insieme tutte queste cose? Noi ci rivolgiamo, i nostri clienti sono le aziende, quindi come ce l'abbiamo per Cesim, noi andiamo dagli stessi clienti, stiamo vedendo che il taglio del cliente cambia, nel senso si aggiunge anche quello della piccola e media impresa, anzi devo dire che sono più attratti perché il modello è a licenza per user, a consumo, nel senso facciamo licenze da 1 mese, 3 mesi, 6 mesi, quindi molto spacchettabile e può esserci diciamo un contratto piccolo a durata breve, magari per un progetto specifico che ha un inizio e un termine, quindi un progetto temporaneo, oppure sto vedendo che magari le aziende che hanno più possibilità prendono la licenza magari per 3 anni e magari per tutti i dipendenti, la persona che comunque non si vede più chiusa dentro e improvvisamente riesce a chattare con un altro che in quel momento guarda caso sta studiando la stessa cosa di un'altra azienda non concorrente nella licenza di tipo open, poi l'azienda si può fare la licenza di tipo closed, cioè fa il social all'interno tra i propri dipendenti. Email per promuovere i prodotti aziendali in un bit di tempo. In un solo giorno BeFree ha destato l'interesse di 21.000 utenti che hanno visitato il sito www.befree.io e creato, grazie a questo editor gratuito in pochi minuti, email e newsletter capaci di adattarsi subito allo schermo di tablet e smartphone, device sui quali oggi un'email su 3 viene letta. Strumento utile per la comunità di professionisti dell'email marketing. Gli stessi utenti hanno messo in evidenza la facilità di creare email con pochi semplici gesti, senza interruzioni di alcun genere. Il lancio di questo prodotto rientra nell'ambito del piano industriale della società MailUp S.p.A., fondata più di 10 anni fa a Cremona, ha sede anche a San Francisco. Spiega la scalata della startup e l'ultima idea anticrisi Nazareno Gorni, CEO di MailUp. Nell'ambito dei nostri servizi, che sono servizi che aiutano le aziende a comunicare via email e via SMS, abbiamo rilevato ormai 2 anni fa che una delle difficoltà principali dei nostri clienti era proprio la creazione di un messaggio email, di una newsletter ad esempio. Difficoltà perché il marketing di solito vuole essere autonomo nella comunicazione, vuole essere veloce e riuscire a creare dei messaggi che sono graficamente gradevoli ma soprattutto che si visualizzano bene anche sui dispositivi mobili. E che vengano letti ovviamente, non passati in rassegna senza o messi nel cestino senza guardarli, no? Esatto, e poi oltre a questo che vengano anche recapitati nella inbox perché ci sono anche i filtri anti-spam che possono benissimo fare errori e bloccare i messaggi. E quindi abbiamo pensato di creare questo editor, cioè un servizio online che permette di comporre messaggi senza alcuna competenza di web. Quindi io posso essere anche, diciamo, posso non avere nessuna esperienza in ambito di creazione grafica e con BeFree, che è il nostro servizio, che si trova all'indirizzo befree.io, io riesco a creare velocemente, in pochi minuti, un messaggio email gradevole e responsive, vale a dire che se lo apro su mobile, su un cellulare, riesco a leggerlo senza dover fare degli zoom o degli scrolling verticali o orizzontali. Chi vi ha aiutato a crescere da azienda, diciamo piccola azienda, un po' più grande, a fare un po' la scale up? Noi siamo partiti nel 2002, quando la bolla di internet era appena scoppiata, però dalla provincia di Cremona avevamo proprio il sentore di di una forte domanda da parte delle aziende, comunque di siti web, di siti di e-commerce e di marketing online. Quindi siamo partiti così per rispondere all'esigenza. Insieme a quattro miei soci e amici abbiamo cofondato questa società in ambito di servizi di marketing digitale, quindi tradizionale web agency. L'idea di creare Mail App è venuta successivamente, quando abbiamo capito che fare il lavoro dell'agenzia era comunque poco scalabile, e quindi abbiamo iniziato a pacchettizzare dei prodotti per cercare di scalare più velocemente. Ne abbiamo sviluppati una decina facendo molti errori, perché eravamo giovani, abbastanza inesperti, soprattutto con risorse molto limitate. Noi siamo partiti con un capitale sociale di 15.000 euro e senza nessun tipo di finanziatori, angel o venture capital. Dopo qualche anno di duro lavoro e scarsi risultati, abbiamo deciso di concentrare l'attenzione su uno solo di questi prodotti, quindi tutti gli altri andavano abbastanza male. Abbiamo scelto quello che ci sembrava più promettente, che era Mail App. La scommessa è stata vinta, nel senso che, sebbene parliamo di 2008-2009, quindi c'era una bella crisi, e dire di no dei clienti e tagliare una grossa fetta di fatturato non è stato facile, però è andata bene, perché da quel momento abbiamo iniziato a aumentare i ritmi di crescita. Siamo sempre cresciuti intorno al 30-40% anno su anno, e questo ci ha portato nel 2011 ad aprire una prima sede a San Francisco, per capire soprattutto se potevamo competere con i big americani, che sono il nostro mercato di riferimento nel nostro settore. Anche lì abbiamo scoperto che la nostra piattaforma non era all'altezza delle soluzioni americane, per cui abbiamo lavorato duro altri due anni per l'usabilità della piattaforma, il modello di pricing che era troppo complesso. Cioè abbiamo imparato molto. Il vostro modello di business qual è? Si tratta di vendere un servizio su cloud, quindi online, che permette quindi all'azienda di creare in autonomia newsletter ed sms da inviare ai propri clienti. Questa è una cosa importante: noi non vendiamo liste di email, non vendiamo pubblicità, diamo solo la tecnologia che permette all'azienda di spedire al meglio. Siamo andati in borsa l'estate scorsa per raccogliere capitali, perché pur essendo una società che non ha debiti con le banche ed è sempre cresciuta in modo organico, abbiamo capito che per crescere e accelerare il percorso di internazionalizzazione avevamo bisogno di risorse aggiuntive, quindi abbiamo fatto questo aumento di capitale quotando una parte della società sul mercato AIM, che è il mercato alternativo della borsa italiana per le piccole imprese ad alto potenziale di crescita. Il modello di business si basa essenzialmente su abbonamenti, e questo penso sia il successo, il motivo del successo del nostro servizio e della nostra crescita, perché noi praticamente vendiamo il servizio in abbonamento annuale con rinnovo o mensile negli Stati Uniti con rinnovo automatico, e questo significa che abbiamo uno zoccolo di fatturato che anno dopo anno cresce con buona marginalità, e questo ci consente di pianificare al meglio gli investimenti per il futuro. E ora pausa caffè social. Se volete ascoltare le precedenti storie o scriverci le vostre voci di piccole imprese su Twitter con l'account @vocipmi, Radio 24 su Facebook alla pagina Voci di Piccola Impresa, il blog e il download sono su www.radio24.it. Grazie alla collaborazione di Anita Panizza, un saluto da Anna Marino.